Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Marra era già un dirigente di questa amministrazione e noi ci siamo fidati. Probabilmente abbiamo sbagliato e di questo mi dispiace. Mi dispiace nei confronti dei cittadini romani, mi dispiace nei confronti del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo, che aveva sollevato qualche perplessità. Il dottor Marra, come ho sempre detto, è uno dei 23.000 dipendenti capitolini e non un esponente politico. Il mio braccio destro sono i cittadini romani ed è per loro che ogni giorno lavoriamo senza sosta. Andiamo avanti con serenità. Che settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che settimana è stata questa dal punto di vista della politica italiana? Nascita in tempo record del governo Gentiloni, con tutta la scia poi di polemiche, per riassumere così in estrema sintesi. Poi Renzi, che anche se si è fatto da parte, si è dimesso, in realtà si sta scaldando ai blocchi di partenza, forse dobbiamo dire meglio ai blocchi di ripartenza. E poi, quando stava finendo la settimana, oggi ultimo giorno, diciamo la settimana in senso così ortodosso, lavorativo, non so come definirla, pam, che succede che l'amministrazione di Roma e Milano finiscono nel mirino. Il sindaco di Milano Sala si è autosospeso al momento perché è indagato, e a Roma è stato arrestato Marra, uomo di fiducia, uomo fedelissimo della sindaca Raggi. Quindi insomma ne avremo di che parlare oggi, che poi sapete il venerdì, la puntata del venerdì di Effetto Notte centrata soprattutto sul bilancio della politica della settimana. Poi parleremo naturalmente anche di altri temi, per esempio lo smog nelle città italiane. Non piove, siamo ai soliti periodi invernali in cui le polveri PM10 aumenta e quindi si comincia a pensare al blocco del traffico in alcune città. Già c'è, cercheremo di fare una panoramica. Intanto vi ricordo come sempre all'inizio che per interagire qui Effetto Notte ci sono due canali privilegiati per voi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Ma non perdiamo altro tempo e capiamo prima di tutto che giornata è stata. Roma, arrestato per corruzione il fedelissimo di Virginia Raggi. Lei chiede scusa e dice: ci siamo fidati, sono dispiaciuta, ma andiamo avanti. Grillo, in una telefonata alla sindaca, avrebbe detto: te l'avevo detto, ora rimedia. Milano, il sindaco Sala è indagato per il più importante appalto Expo, si autosospende. Prima voglio capire, dice. Mediaset, Fininvest valuta il sequestro delle azioni di Vivendi. Stati Uniti, FBI e il capo degli 007 sono concordi con la CIA. La Russia ha interferito sulle elezioni americane per aiutare Donald Trump. Siria, la Russia annuncia a sorpresa è finita l'evacuazione di Aleppo, ma l'OMS smentisce, molti civili ancora da salvare, anche bimbi. Giappone, il paese del sollevante, diventa il primo creditore degli Stati Uniti, superando la Cina. Violenza sulle donne, massacrò di botte la fidanzata riducendola allo stato vegetativo, la Cassazione conferma la condanna a 16 anni. Udine non mangia per due giorni, una ragazzina sviene in classe, e per il cinema Fuoco a mare di Rosi non ce l'ha fatta a rimanere in corsa per gli Oscar nella categoria miglior film straniero, passa alla shortlist di 15 titoli della categoria documentari. Tecnologia, pronto il primo drone che imita il volo degli uccelli, è stato realizzato in Svizzera in un laboratorio diretto da un italiano. E quindi inevitabilmente partiamo da questo venerdì nero per le amministrazioni di Roma e di Milano. La sindaca Raggi, dopo l'arresto del capo del personale in Campidoglio, Raffaele Marra, ha fatto un mea culpa, ha detto: su Marra ho sbagliato, dice ma non mi dimetto. Sentiamo allora prima la cronaca della vicenda, poi le reazioni. Virginia Raggi non molla nonostante l'arresto per corruzione di Raffaele Marra, capo del personale e suo fedelissimo. Ci siamo fidati di lui e probabilmente abbiamo sbagliato, è la spiegazione della sindaca pentastellata, che in una dichiarazione rilasciata alla stampa si è anche scusata con i romani e con Beppe Grillo. Le accuse che gli vengono rivolte si riferiscono al passato, lo sostituiremo subito e andremo avanti, ha poi aggiunto Raggi. Il dottor Marra, come ho sempre detto, è uno dei 23.000 dipendenti capitolini e non un esponente politico. Il mio braccio destro sono i cittadini romani ed è per loro che ogni giorno lavoriamo senza sosta. Andiamo avanti con serenità. Figura chiave anche nella giunta Alemanno, Marra è accusato di aver preso una tangente da oltre 360.000 euro nel 2013 dall'immobiliarista romano Sergio Scarpellini, anche lui arrestato, per l'acquisto di un appartamento dell'Ena Sarco. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP sottolinea la pericolosità sociale dei due che, si legge, se lasciati in libertà potrebbero commettere nuovi reati, anche in considerazione del ruolo ricoperto da Marra e dell'indubbia fiducia di cui gode da parte di Virginia Raggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La vicenda Marra spiazza il Movimento 5 Stelle. È solo un tecnico, lo sostituiremo, minimizzano i pentastellati presenti in Campidoglio. Di altro avviso i vertici nazionali riuniti con Grillo in un hotel a Romano, così Fico. Deve fare il suo corso magistratura, carabinieri, giusto così. Certo, è una cosa grave, non c'è un bradulbio gravissimo. La Raggi non basta chiedere scusa, dice la Taverna. La Lombardi, che in passato aveva espresso più di una perplessità sul dirigente arrestato, aggiunge. Sono molto fiera di stare dalla parte giusta. Il blog di Grillo intanto ricorda, Marra si sarà anche messa a disposizione di Scarpellini, il movimento no, 32 milioni di euro risparmiati all'anno con la disdetta dei contratti della Camera. Sul Movimento 5 Stelle è intanto un tiro incrociato di maggioranza ed opposizioni. Grillo, Di Maio e Di Battista sono politicamente responsabili, dice dal PD Orfini. Il Movimento 5 Stelle è inadeguato a governare, dice Toti. Forza Italia, la Meloni aggiunge. Voi 5 Stelle prendono atto del fatto che non sono capaci di governare e la Raggi si dimette, oppure vogliamo vedere tutto lo Stato Maggiore Grillino che viene a governare la città. Raggi lasci e si torni ad elezioni, dice Salvini. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi da fonti del partito del Movimento 5 Stelle, Grillo avrebbe fatto una telefonata oggi alla sindaca Raggi dicendo te l'avevo detto, ora rimedia. E a Milano c'è l'indagine che ha riguardato il sindaco Sala, la sua autosospensione è stata confermata, ci racconta tutto Sara Monaci del Sole 24 Ore. A Milano il sindaco Giuseppe Sala si è recato in prefettura questa mattina per dare nelle mani del prefetto Alessandro Marangoni l'atto simbolico dell'autosospensione, un atto che ancora non sappiamo bene in cosa consisterà tecnicamente. Non è un rimanere attaccato alla propria poltrona come dichiarano più polemicamente le opposizioni del Movimento 5 Stelle, non è nemmeno una dimissione, è un modo, spiega Sala, per poter fare chiarezza senza rimanere in trincea. Quindi è previsto nei prossimi giorni un incontro con la Procura Generale dove il primo cittadino dovrà capire quali sono le accuse a suo carico. Al momento si parla di un falso, sarebbe stato retrodatato un contratto proprio per non proseguire troppo a lungo nell'aggiudicazione della gara. Questa inchiesta sembrava destinata all'archiviazione un mese e mezzo fa. I procuratori avevano chiesto l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari, richiesta respinta, e la Procura Generale ha avocato a sé improvvisamente, inaspettatamente, l'inchiesta che è stata riaperta ed è stata una sorta di colpo di scena. Per il momento è tutto. Grazie Sara Monaci. Adesso parliamo della fiducia confermata per quanto riguarda sempre la vicenda di Milano da parte della Giunta di Milano. Per il governo è intervenuto il ministro Martina. Piena fiducia nel sindaco Sala, ha fatto un gesto di grande rara sensibilità. Sono convinto che si chiariranno le situazioni e credo che il sindaco abbia la fiducia della città. E poi invece questa è l'opinione di Matteo Salvini della Lega. Noi non chiediamo le dimissioni, se ha la coscienza pulita faccia il sindaco e vada in ufficio a lavorare, se ha qualcosa da nascondere si dimetta, l'unica cosa che i milanesi non possono permettersi è perdere tempo e avere un sindaco che non si sa se è sindaco. Ora la scalata a Mediaset, chiusura in rialzo per le borse europee. Milano ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,11%. Mediaset meno 0,5% ha risentito ancora della pressione dei realizzi, mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse di Fininvest e Vivendi nella partita per il controllo dell'azienda. Fininvest studia le contromosse al raid con cui Vivendi è salita al 20% di Mediaset e pensa al sequestro cautelativo delle azioni acquistate dai francesi. Dopo l'esposto per aggiotaggio dei giorni scorsi, il pool legale del gruppo sta infatti preparando altro materiale da consegnare alla Procura di Milano e nelle carte potrebbe esserci proprio la richiesta d'urgenza del sequestro. A Roma, intanto, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha incontrato l'amministratore delegato di Vivendi, Arnaud Puyfontaine, nella capitale per il CDA di Telecom, di cui i francesi sono azionisti di maggioranza. Calenda nei giorni scorsi ha parlato di scalato ostile di Vivendi a Mediaset, annunciando l'attenzione del governo all'operazione. Un'attenzione ribadita dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Seguire con vigile attenzione la vicenda, perché sappiamo che sia le reti di telecomunicazione che le grandi strutture di informazione sono in un paese molto, molto importanti. A difesa di Mediaset anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. E come Confindustria abbiamo sempre detto che siamo per il libero mercato e per il rispetto delle regole a condizione di reciprocità. Se mi chiede da imprenditore italiano, è chiaro che tra una sfida tra un imprenditore italiano e un imprenditore di un altro paese, tifo Italia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Dagli Stati Uniti arriva queste dichiarazioni piuttosto forti. James Comey, capo dell'FBI, James Clapper, numero uno dell'intelligence americana, si sono detti d'accordo con la CIA, cioè che la Russia ha interferito sulle elezioni americane per aiutare Donald Trump. Questo lo riporta il Washington Post, citando fonti dell'amministrazione, ma adesso è uscita anche una dichiarazione di Barack Obama che dice: la Russia ha interferito sulla campagna elettorale americana ed è responsabile per aver hackerato il Partito Democratico. L'ha detto in una conferenza stampa, la conferenza stampa di fine anno, sottolineando come si tratta di fatti basati su una valutazione uniforme da parte di tutte le agenzie di intelligence. E poi naturalmente parliamo anche della martoriata Siria. Oggi c'è stato un attentato esplosivo a Damasco, hanno sacrificato una bambina di 8 anni facendola esplodere, denuncia l'agenzia di stampa governativa Sana. Mancano delle conferme, così come è ancora confusa la situazione ad Aleppo. L'operazione dell'esercito siriano per liberare Aleppo Est dai miliziani è conclusa, afferma il Ministero della Difesa russo. Le truppe governative stanno liquidando, dice, le ultime sacche di ribelli che hanno rifiutato l'evacuazione. Se sia veramente l'epilogo dell'assedio lo capiremo solo nei prossimi giorni. Di certo c'è che l'accordo tra Russia e Turchia, sostenuto dall'ONU, ha consentito a migliaia di civili e ribelli che hanno deposto le armi di lasciare i quartieri est. Non tutti però sono usciti, altre migliaia sono in attesa. I governativi siriani infatti hanno fermato le operazioni pretendendo la liberazione dei civili bloccati dai ribelli nella zona di Idlib. Il prossimo passo dovrà essere un cessate il fuoco nazionale, ha detto il presidente russo Putin, che guarda avanti e sta organizzando già un incontro tra il governo di Assad e i suoi oppositori in Kazakistan. Le atrocità di Aleppo andranno punite, ha denunciato la cancelliera Merkel, ma quel che è successo lì, ha aggiunto, rivela anche il fallimento politico nostro e delle Nazioni Unite. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di Giappone. La Cina restituisce al paese del sollevante, al Giappone, il ruolo di primo creditore degli Stati Uniti, scontando la Cina l'ingente spesa sostenuta con le sue riserve valutarie a difesa dello yuan. E poi di nuovo in Italia con l'inchiesta su Banca Etruria. Sono 21 gli avvisi di chiusura d'indagine notificati da altrettanti ex componenti degli ultimi due CDA di Banca Etruria e ad alcuni dirigenti dalla procura di Arezzo nell'ambito del primo troncone di indagini relativo alla bancarotta fraudolenta. Tra loro ci sono gli ex presidenti Fornasari e Rosi, non però Pierluigi Boschi. Per la cronaca, la violenza sulle donne diventa definitiva la condanna a 16 anni nei confronti di Maurizio Falcioni, l'uomo accusato di aver massacrato di botte la sua fidanzata, Chiara Insidioso, nel febbraio del 2014 a Roma, rendendola in stato vegetativo. A dare la notizia è l'avvocato di famiglia, il quale spiega che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'uomo. La vicenda risale al 4 febbraio del 2014, quando al culmine dell'ennesimo litigio scatenato dalla gelosia del fidanzato e convivente, Chiara venne aggredita con calci pugni da Falcioni, che la picchiò tanto violentemente da farla finire in coma, e dopo 11 mesi la ragazza si svegliò, ma ancora oggi resta praticamente in uno stato vegetativo. Per la LAM Povertà, questa notizia che ci riporta una brutta storia che arriva da Udine. Oggi una ragazzina che frequenta la scuola media è svenuta in classe durante la lezione, pare non mangiasse da 2 giorni, la causa del suo mancamento un estremo stato di prostrazione causato dalle precarie condizioni di indigenza in cui lei e la sua famiglia si troverebbero a vivere. La ragazzina avrebbe ammesso di non toccare cibo da 48 ore e di essersi fatta la doccia con l'acqua fredda. L'allerta smog riguarda sempre più città italiane, limiti superati anche a Firenze, e più tardi, come vi dicevo all'inizio, faremo una panoramica sulla situazione dell'inquinamento nelle città e anche sui limiti al traffico che man mano si stanno espandendo. Per il cinema, Fuoco a Mare non ce l'ha fatta a rimanere in corsa per gli Oscar nella categoria miglior film straniero. L'Academy ha annunciato la prima sezione dei film in lingua originale che concorreranno per gli Oscar, e l'opera di Gianfranco Rosi è stata esclusa dalla shortlist di 9 film, dalla quale poi a fine gennaio verrà estrapolata la cinquina che concorrerà al premio. Non tutte le speranze per l'Italia però sono finite, perché Fuoco a Mare è nella shortlist di 15 titoli della categoria documentari. Per chiudere questa notizia di tecnologia, ha costruito il primo drone che imita il volo degli uccelli, dotato di ali piumate ripiegabili all'estremità con un meccanismo a ventaglio e capace di adattarsi a diverse condizioni di vento, risultando più agile e preciso nei cambi di direzione. Presentato sulla rivista Interface Focus, è stato realizzato in Svizzera al Politecnico di Losanna nel laboratorio di sistemi intelligenti diretto dall'italiano Dario Floreano. E con questo drone piumato direi che abbiamo riassunto così la giornata. Questo è il quadro delle notizie più importanti di oggi. Poi viabilità, tra poco cominceremo a parlare di politica e soprattutto con i fatti più recenti, quelli accaduti nelle ultime ore. Intanto vedo molti vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Davide per esempio scrive: mi piacerebbe capire chi è sto Marra, perché al comune da così tanti anni, in quale veste, chi l'ho assunto e perché prima Alemanno, poi Marino e ora la Raggi gli hanno voluto assegnare un ruolo, anche se onor del vero pare che Marino l'avesse relegato un po' in un ruolo diciamo decisamente minore. Poi Danilo dice che tutti e due, Sala e Raggi, stanno tenendo nei rispettivi ruoli il giusto profilo, non così media, che come al solito usano due pesi e due misure nel dare rilevanza. Insomma, ne parleremo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti le avete sentite, eh? Nel quadro della giornata non perdete mai, soprattutto la prima parte di Effetto Notte, ma tutto Effetto Notte seguite sempre dalle 21 alle 22, Roberta Giordano sempre con voi. Vedo adesso un aggiornamento: è appena finito il summit del gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che si è tenuto nella residenza di Beppe Grillo, in realtà era un hotel di Roma. Dalla riunione sono usciti contemporaneamente Di Maio, Roberto Fico, Roberta Lombardi, responsabili della comunicazione, tre consiglieri, anche Paola Taverna che ha lasciato la riunione, e hanno detto insomma che qualsiasi novità, qualsiasi cosa verrà decisa, vi verrà comunicata formalmente. Questo è stato detto ai giornalisti. Sapete, vi dicevo appunto di questa giornata concitata per Roma e anche per Milano. Ne parleremo tra pochissimo. Tra poco vi ricordo anche le notizie più importanti, se non avete acceso puntualmente alle 21. E poi tanti vostri messaggi. Dice per esempio questa ascoltatrice Lidia: meno male che la Raggi non fa il medico, ha solo sbagliato. Dice: vabbè, ci sono sbagli e sbagli, poi valuteremo. Da Roma Marco: il sindaco ha con il comune il rapporto di servizio a norma del testo unico enti locali, pertanto se si autosospende, quindi si riferisce a Sala, il suo è un comportamento arbitrario e illegittimo non autorizzato dalle suddette norme. In realtà Marco, non so, però ha depositato diciamo la sua autosospensione in prefettura oggi il sindaco, e quindi mi pare che non ci sia stato nessun intoppo in questo, quindi evidentemente è una sua prerogativa, seppur insolita, diciamo, credo sia stata usata pochissimo. Comunque, dicevo, ne parleremo tra pochi istanti. Adesso vi ricordo quali sono i titoli principali. Marra arrestato per corruzione, il braccio destro della sindaca Raggi che dice: abbiamo sbagliato ma andiamo avanti. Grillo telefona alla sindaca e dice: te l'avevo detto, ora rimedia. E poi Sala: a Milano il sindaco indagato si è autosospeso, l'inchiesta potrebbe ampliarsi, nel mirino un appalto, l'appalto della piastra di Expo, e ci sarebbero altri sei coinvolti. Trump nomina un nuovo ambasciatore in Israele, sposta la sede da Tel Aviv a Gerusalemme. L'OLP dice: così la pace è impossibile. Poi la notizia che è arrivata poco fa, secondo la quale per l'intelligence americana la Russia avrebbe interferito per far vincere Trump. E poi Mediaset, la scalata Mediaset prepara il CDA, Fininvest vuole il blocco delle azioni Vivendi. E il 19 dicembre, giornata di silenzio per i call center italiani, Almaviva, sapete il colosso dei call center, non cede sul taglio di stipendi e quindi ci sarà il 19 uno sciopero generale. La Russia, per quanto riguarda la Siria, annuncia a sorpresa finita l'evacuazione di Aleppo, però l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, smentisce e dice molti civili ancora da salvare, anche molti bimbi. E poi la Cassazione dice: bisogna rifare il processo agli ex vertici di Finmeccanica sulle presunte tangenti per gli elicotteri venduti all'India. Ho sentito dire che noi non avremmo riconosciuto la sconfitta referendaria. Ma io devo dire che la canzone diceva: se stasera sono qui, diciamo, se stasera sono qui è perché abbiamo riconosciuto le ragioni l'abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto in modo molto rapido. 9 giorni fa il referendum, una settimana fa le dimissioni del presidente Renzi, 2 giorni fa l'incarico al sottoscritto di formare il nuovo governo. Non per impazienza, ma perché credo sia a tutti evidente l'importanza di dare all'Italia istituzioni stabili e certezza in un contesto come quello attuale. E ci sembrava, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che il grosso della politica della sera ormai fosse concluso, diciamo, nella formazione del nuovo governo Gentiloni, con diciamo l'esplicitazione programmatica, nel senso che di quelle che sono le priorità di questo governo, e anche il fatto di rivendicare orgogliosamente di essere in continuità con quello di Renzi, seppure questo sia stato invece il motivo dell'indignazione delle opposizioni. Però diciamo un governo accompagnato soprattutto da una domanda martellante, che è: quanto durerà e quando si andrà a elezioni? Insomma, ci sembra di poterci fermare qui, visto che era venerdì. Invece irrompono sulla scena politica italiana, nuove magagne per la giunta di Roma con l'arresto di Raffaele Marra, chi lo definisce braccio destro, chi fedelissimo, insomma un collaboratore molto stretto della sindaca Raggi, accusato di corruzione. E poi a Milano l'autosospensione del sindaco Sala, perché indagato per il più importante appalto relativo a Expo, quello della cosiddetta piastra, che sarebbe la base su cui poi si è costruita tutta l'esposizione, per reato di falso ideologico. Insomma, le due principali città italiane, Roma naturalmente la capitale, sa va san dire, sono importante Roma, e poi l'altra, Milano, che è considerata la capitale economica, morale, ma ultimamente anche il cuore della possibile ripartenza dell'Italia. Insomma, siamo messi bene. Barbara Fiammeri, buonasera Barbara. Buonasera. Commentatrice politica del Sole 24 Ore. Allora, dico brevemente, a Milano il sindaco Giuseppe Sala si è autosospeso fino al chiarimento delle accuse, appunto per aver ricevuto questo avviso di garanzia per l'appalto piastra di Expo, un appalto da 272 milioni di euro. Riguarda, secondo un'informativa delle Fiamme Gialle, una data falsa nei verbali della commissione di gara, e le opposizioni lo attaccano, mentre gli assessori lo sostengono, esprimono fiducia, dicono: una persona per bene, abbiamo fiducia in lui. Io direi di partire da Milano, Barbara. Si è autosospeso, diciamo, qui va sì. Evidenziato un aspetto, secondo me, che questa vicenda di Sala è un po' paradossale, nel senso che noi ci troviamo in una situazione in cui la Procura di Milano aveva di fatto archiviato la posizione di quello che poi sarebbe diventato il sindaco, ed è stata riaperta in appello dalla Procura Generale. In questo caso, peraltro, Sala risponde non direttamente, nel senso che all'epoca dei fatti contestati era amministratore delegato, neppure ancora commissario di Expo. Quindi di fatto, in quanto amministratore delegato, risponde di quello che hanno fatto i suoi sottoposti. E qual è l'accusa? Quella che, per velocizzare i lavori, perché vi ricordate che erano stati accumulati una serie di ritardi, sarebbe stato commesso un falso retratando la composizione un contratto, la composizione della commissione. Quindi il reato, infatti, contestato è quello di falso, non c'è né corruzione, addirittura. Da quello che ho letto sulle carte si dice esplicitamente che questo falso è stato commesso non per favorire una parte pubblica o privata che fosse, ma per velocizzare i lavori. Questa è la situazione. Sala si sospende e quindi sceglie una via, per difendersi, perché dice: finché non chiarisco la mia posizione, in quanto lui ha preso dalle informazioni giornalistiche, quello che stava avvenendo, e quando chiarirò la mia posizione tornerò alla guida della giunta. Quanto durerà questa sospensione? Sentivo oggi, insomma, i colleghi a Milano mi dicevano che non dovrebbe essere una cosa lunga, e la procura stessa ha detto che sentirà immediatamente, insomma, tempestivamente il sindaco per chiarire la posizione. Barbara, io sentirei Salvini, leader della Lega, che cosa ha detto su questa vicenda. Sentiamo. Non speculo sui problemi altrui, indagato non vuol dire condannato, chiedo solo chiarezza, e chiarezza velocemente. I milanesi, io da milanese vorrei sapere se ho un sindaco o non ho un sindaco, quindi non chiedo le dimissioni, anche perché mi sembra che in tribunale a Milano ci sia qualche diversità di vedute fra procuratore e procuratore, però anche l'autosospensione inventata da Sala è una roba alla Gentiloni, o di qua o di là. Se Sala ha la coscienza pulita, vada in ufficio oggi pomeriggio a fare il sindaco; se Sala ha qualche problema, si dimetta, appunto. Su Expo ci sono ancora tanti punti da chiarire, sui debiti, sugli appalti, sui biglietti. Qualcuno dice è un po' una fuga questa di Sala, oppure una posizione furba, nel senso non mi dimetto perché poi diventa più complicata la questione, mi autosospendo, quindi do comunque un segnale di uno che fa un passo indietro, però poi appena possibile ritorno. Come lo interpreti? Ma non lo so, non mi va di fare il processo alle intenzioni perché di Sala. Perché Salvini dice se ha la coscienza pulita, vada avanti. Salvini fa l'opposizione, sì. Fa bene fare l'opposizione, la fa molto bene. Però è chiaro che Sala in una situazione del genere non voleva trovarsi nel tritacarne, per cui ogni giorno gli avrebbero, probabilmente se non si fosse sospeso avrebbero chiesto le dimissioni, insomma, tanto per essere chiari. Quindi ha anticipato i tempi e secondo me soprattutto ha messo un pressing sulla procura, perché quello che diceva Salvini, ed era un po' quello che vi stavo dicendo inizialmente, cioè il fatto che comunque c'è stata la procura di Milano, di Greco, che aveva archiviato, e poi adesso la procura generale che rimette in pista questa indagine, insomma c'è qualcosa. Ricordo che ci fu uno scontro quando c'era Bruti Liberati a capo della procura, che c'era, insomma, venne tolta l'inchiesta a Robledo, venne data la Boccassini, insomma. Cioè, sembra quasi che questa guerra all'interno della procura di Milano, questi siano un po' degli scampoli di quella guerra all'interno della procura, dice. Sì, Barbara, sì, allora adesso sentiamo invece Salvini sulla vicenda di Roma. Altro paio di maniche è Roma, perché lì fra indagati, corrotti, arrestati, licenziati, dimissionati, sostituiti, in sei mesi la Raggi dei 5 Stelle ne ha combinate più di Bertoldo. E mentre Milano è una città che funziona, Roma mi sembra sempre più spenta e più sporca, quindi lì le elezioni mi sembrerebbero doverose. Allora, ci sono vari ascoltatori che dicono che cosa significa dire fedelissimo Marra di Virginia Raggi. Un altro ascoltatore, Fabio, dice: tutto il giorno che, riferendosi all'assessore Marra, lo definite fedelissimo di Virginia Raggi, ma perché vi rendete così ridicoli in radio? Volete far credere che un personaggio che da 20 anni in Campidoglio sia uno del Movimento 5 Stelle? Ma se pensate i vostri ascoltatori siano ingenui, cosa pensate di essere? Eccetera. Comunque, fatto sta che, anche se è vero che oggi Virginia Raggi, e tra pochi istanti la sentiamo, ha chiesto scusa anche a Grillo, al Movimento 5 Stelle, perché dice Grillo effettivamente ha avuto delle perplessità, però bisogna dire che lei l'ha difeso strenuamente praticamente fino ad oggi. Sentiamo un passaggio della sindaca Raggi. Trattandosi di un'indagine in corso, io non posso entrare nei dettagli, però posso dire che la procura ha chiesto dei documenti. Questa richiesta è un atto dovuto che credo appunto abbia origine nell'esposto presentato dalla dottoressa Raineri e pubblicamente annunciato, quindi insomma su questo si può dire, e abbiamo messo a disposizione tutti i documenti che ci hanno chiesto. No, questo era riferito a ieri, alla vicenda Muraro che si è dimessa. Adesso ritorniamo invece sulle scuse che ha dato oggi. Marra era già un dirigente di questa amministrazione e noi ci siamo fidati. Probabilmente abbiamo sbagliato e di questo mi dispiace. Mi dispiace nei confronti dei cittadini romani, mi dispiace nei confronti del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo, che aveva sollevato qualche perplessità. Ecco, lo dice, no? Beppe Grillo ha qualche perplessità. Grillo oggi ha detto, cioè pare che abbia telefonato alla sindaca dicendo: te l'avevo detto, adesso devi rimediare. Barbara, basta chiedere scusa? Per esempio la parlamentare del Movimento 5 Stelle a Taverna, oggi entrando in questa riunione con Grillo, ha detto ai giornalisti: no, non basta chiedere scusa. E Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, era stata la prima tempo fa a dire: attenzione, Marra sta infettando il Movimento, è un virus che sta infettando il Movimento 5 Stelle, e oggi ha detto: sono contenta di essere dalla parte giusta. L'Espresso tra l'altro dice che lei aveva presentato un esposto contro Marra novembre scorso, così dice la settimana scorsa. Allora, guarda, io la cosa, cioè, poi appunto come al solito dico una cosa abbastanza banale: le indagini faranno il loro corso, la magistratura accerterà, eccetera, eccetera. Però c'è un dato invece politico che secondo me merita attenzione. Qui non si tratta tanto se è fedelissimo o non fedelissimo, è evidente che è un fedelissimo di Raggi, perché come si emerge anche dalle dichiarazioni di Grillo, della Lombardi, della Taverna, cioè del Movimento 5 Stelle, dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle, chi ha voluto strenuamente Marra al suo fianco è stata la Raggi. Ma qual è secondo me il dato politico che emerge da questa vicenda della giunta romana? Perché questa giunta vi ricorderete che ci sono voluti mesi prima che nascesse, nonostante la vittoria della Raggi fosse scontata da tutti i sondaggi, ma insomma da un anno praticamente si sapeva che avrebbe vinto il Movimento 5 Stelle, poi abbiamo saputo chi fosse candidato, ma insomma era dato per scontato. Quindi il Movimento 5 Stelle aveva avuto tempo per prepararsi, invece abbiamo assistito a mesi in cui la giunta non si formava perché per le guerre intestine al Movimento. Allora, la cosa che a me pare grave, cioè preoccupante per un partito politico, per una forza che vuole essere forza di governo, è che non è stata in grado di costruire una sua classe dirigente, perché questa cosa di Marra, che era un esponente vicino ad Alemanno, che era nella precedenza, è un po' il faizzaio con la caso Muraro, cioè Muraro era una persona che lavorava in AMA da oltre 10 anni. Che scusa era Barbara, ma è possibile, dico io, che magari la sindaca, sapendo di essere diciamo una neofita della politica, abbia voluto accanto a sé delle persone che erano lì da tempo e dice così sono sicura che sanno dove mettere le mani? Intanto, cioè, non, voglio dire, se tu hai vai alla guida di un governo, no? Di una città, volendo fare un ripulisti, visto che Roma era una città inquinata da una serie di indagini su Mafia Capitale, insomma la prima cosa che devi fare è tagliare i cordoni con il passato, no? Quindi AMA era sotto inchiesta, è uno dei gangli, no? Di Roma Capitale, di Mafia Capitale. E per quanto riguarda Marra, anche lui aveva fatto, era stato parte, come dire, attiva nella giunta Alemanno. Allora, che cosa volevo dire con questo? Anche la stessa Raineri e Minenna, che appunto erano quelli poi che sono andati via e dai quali è scaturito tutto il pandemonio, erano in realtà persone che lavoravano con l'ex prefetto commissario per Roma e che poi furono come dire, assorbiti dalla giunta, dalla Raggi, perché non aveva personale. Quindi a cosa abbiamo assistito? A una guerra tra due fazioni, quella di Marra e insieme a lui di altri, che era, diciamo, l'ala legata ad Alemanno, a quella parte lì, e lì si è venuto fuori la Lombardia, hanno attaccato perché appunto lo studio San Marco, quello di Previti, insomma un mondo della destra, no? Che ritornava fuori. Dall'altra parte avevamo un'altra parte dei 5 Stelle che invece sostenevano la Raineri, Minenna ed altri, perché, come dire, anti. Però nessuno di questi personaggi, questo secondo me l'aspetto, come posso dire, inquietante, veniva fuori dal mondo dei 5 Stelle. Cioè, non parlo di parlamentari o di esponenti targati 5 Stelle, però, come dire, di una struttura tecnica, amministrativa, che in qualche modo potesse fare riferimento a loro. E invece questo non c'è, cioè perché? Perché non hanno un personale anche amministrativo in grado di gestire. Barbara, a questo proposito vorrei farti sentire Becchi, Radio Campus Cusano oggi, che era definito l'ideologo, no, del Movimento 5 Stelle, che cosa ha detto a proposito del Movimento e di Grillo? Io credo che Grillo stia dimostrando in questo momento una totale incapacità di governare il Movimento, quella capacità che invece ha avuto finché è stato in salute, diciamo, Gianroberto Casaleggio. Allora Barbara, ci dobbiamo proprio lasciare, dimmi proprio secca che cosa ne pensi di questa valutazione. Beh, intanto vorrei premettere che Grillo, che Becchi ha rotto con il Movimento, da tempo, quindi, sì. Sì, e quindi qualche sassolino adesso se lo vuole togliere, quindi le sue affermazioni le leggo anche una sorta di chiave un po' ostile. È evidente però che c'è un problema di leadership all'interno del Movimento 5 Stelle, lo stesso coinvolgimento di Di Maio nella vicenda Raggi, cioè adesso si è aperta una guerra da tempo, ma ormai è esplosa col caso Marra, perché voglio dire, l'arresto per corruzione non è una bazzecola, questa storia della casa si sapeva da un sacco di tempo perché l'Espresso aveva fatto un'inchiesta, così come si sapeva della Muraro e dei suoi rapporti con la dirigenza dell'AMA. Barbara, lo ricordo brevemente, scusami, abbiamo sentito anche nei servizi all'inizio della ricostruzione della giornata, però Marra è accusato di corruzione, secondo la Procura di Roma nel 2013 avrebbe intascato una tangente dall'immobiliarista Sergio Scappellini, anche lui finito in manette, questa tangente per comprare un'arma didattico che era al tempo delle Nasarco e quando allora Marra era capo del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma, ecco, giusto per precisare. Barbara, direi che avremo modo nei prossimi giorni naturalmente di continuare a parlare di queste vicende. Dimmi proprio secca sì o no, secondo te la sindaca dovrebbe dimettersi sì o no? Secondo me sì. Grazie Barbara Femeri. Ciao Barbara. Grazie a voi. Ciao. Direi che allora possiamo prenderci questa pausa. Giorgio scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: l'unica riflessione corretta per me è prima si dimostri la colpevolezza. Tra poco. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che tra poco vi ricordo in pochi secondi. Roberta Giordano sempre con voi. Allora abbiamo parlato ampiamente della diciamo di questa concitata giornata politica e di questa intensa settimana in realtà della politica italiana con la formazione del governo Gentiloni e poi i fatti che abbiamo raccontato delle amministrazioni in difficoltà di Roma e di Milano. Adesso invece parliamo di un altro tipo di difficoltà tra poco, quello di muoversi in città sempre più inquinate e con i limiti che si stanno mettendo al traffico in questi giorni in alcune delle principali città. Però prima di tutto vi ricordo le notizie più importanti. Roma, arrestato per corruzione il fedelissimo di Virginia Raggi. Lei chiede scusa e dice ci siamo fidati, sono dispiaciuta, ma andiamo avanti. Grilli, una telefonata alla sindaca, dice te l'avevo detto, ora rimedia. Milano, il sindaco Sala è indagato per il più importante appalto Expo, si autosospende e chiarisce prima voglio capire. Mediaset, Fininvest valuta il sequestro delle azioni di Vivendi. Stati Uniti, FBI e il capo degli 007 sono concordi con la CIA. La Russia ha interferito nelle elezioni americane per aiutare Donald Trump. Siria, la Russia annuncia a sorpresa è finita l'evacuazione di Aleppo, ma l'OMS smentisce molti civili ancora da salvare, anche bambini. Violenza sulle donne, massacrò di botte la fidanzata riducendola allo stato vegetativo. La Cassazione conferma la condanna a 16 anni per l'uomo. Cinema, Fuoco a mare di Rosi non ce l'ha fatta rimanere in corsa per gli Oscar nella categoria miglior film straniero, passa alla shortlist di 15 titoli della categoria documentari. È entrata poco fa una nuvola di smog qui dentro Effetto Notte nello studio. Spero proprio di no. Cristina Carpinelli. Grazie. Ciao Cristina, che adesso ci racconta di queste PM10 sempre più alte. Purtroppo è un fenomeno che d'inverno insomma siamo abituati a vivere e a respirare e questo poi porta alle riflessioni e anche diciamo all'attuazione del blocco del traffico. Cristina, ci fai un po' una panoramica? Eh sì, sono molte le città italiane che a causa dello smog hanno deciso per il blocco delle auto più inquinanti. Oggi il provvedimento di blocco è stato adottato a Roma, Milano, Napoli, blocco dei veicoli più inquinanti anche a Firenze da domani nei comuni della cintura metropolitana, da domani fino al 21 dicembre a Firenze. Il provvedimento è stato preso perché per 6 giorni consecutivi si è superato il valore limite per la media giornaliera di PM10. Allora sentiamo l'assessore all'ambiente di Firenze Alessia Bettini, poi continuiamo con questa panoramica appunto. Allora, noi abbiamo aspettato oggi per vedere come eravamo messi su ieri e siamo a 6 sforamenti. Quindi noi abbiamo una norma approvata dal nostro PAC che recepisce tra l'altro una direttiva regionale, per cui quando scatta diciamo la regola del 7, quindi più superamenti con condizioni meteo dei giorni successivi negative, dobbiamo far partire il blocco. Siccome appunto abbiamo per i prossimi 3 giorni una previsione meteo negativa di domenica, a questo punto, avendo già 6 sforamenti, siamo obbligati a far partire il provvedimento. Il provvedimento per il blocco del traffico durerà 5 giorni, quindi fino a mercoledì, e riguarda il divieto di circolazione a diciamo mezzi autoveicoli più vecchi e più inquinanti, soprattutto il diesel Euro 2 ed Euro 3, le autovetture a benzina Euro 1, i motocicli a 2 tempi Euro 1 e i veicoli commerciali diesel Euro 1 ed Euro 2. Quindi non potranno circolare dalle 8.30 alle 12.30, poi è prevista una finestra e poi dalle 14.30 alle 18.30. Voglio anche ricordare che questo provvedimento contingibile non riguarda soltanto il Comune di Firenze, ma anche gli altri 7 comuni dell'agglomerato. Ecco, questa quindi la situazione a Firenze. Devo dire che l'atteggiamento degli amministratori è simile nelle città più colpite. I livelli di smog si mantengono ampiamente oltre i limiti a Milano e in Lombardia, soprattutto nelle città, nelle zone pedemontane. Nella città di Milano è stato superato il limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi per metro cubo per 10 giorni consecutivi. Stop anche qui quindi ai veicoli Euro 0, benzina Euro 0, 1 e 2 diesel anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 7.30 alle 19.30. Come funzionano questi blocchi? C'è una prima soglia di attivazione che riguarda 50 microgrammi di PM10 per metro cubo e questo blocco si attiva prendendo appunto atto di questa situazione grave, partendo da un protocollo per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria. Quindi tenete d'occhio i cartelli elettronici che vedete in giro anche per la città, Cristina. Sì, questo sì. Poi sicuramente credo che verranno fatte anche delle informazioni capillari su giornali, su pagine locali. Noi lo stiamo facendo, lo stanno facendo un po' tutti, quindi risulta anche difficile rimanere proprio completamente all'oscuro, fuori da questa situazione, anche perché la situazione meteorologica insomma sta impedendo anche all'aria di ripulirsi, quindi tutto sommato non credo che ci saranno cambiamenti rispetto a quello che stiamo dicendo anche per i prossimi giorni. Poi sentiremo giorni. Alla fine col mito, Quindi la situazione è difficile in varie città della Lombardia: Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Mantova, Cremona, Como, Brescia, Lecco e Varese. Quindi la situazione, diciamo, è un po' generale, democraticamente generalmente distribuita. Anche Torino grave. Nei giorni scorsi, no? Tra l'altro. Anche Torino si sta attivando sostanzialmente nello stesso modo in cui si è attivata Milano e Roma. Roma, tra l'altro, probabilmente da domani eviterà il blocco, perché pare che nel caso di Roma ci sia un miglioramento sensibile della qualità. Aria difficile, pesante anche a Napoli, dove è vietata da tempo la circolazione ai mezzi più inquinanti. È il fermo già previsto per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30 alle 16.30. Adesso hanno aggiunto anche un altro giorno, il martedì, e in questa giornata il divieto di circolazione resterà in vigore fino al 31 dicembre, mentre per tutti gli altri durerà fino al 31 marzo 2017. Quindi questa la situazione, come ricorderai, anche l'anno scorso più o meno in questo periodo si verificò, ecco, c'è un tavolo quindi in cui si lavorano gli amministratori locali e il ministero, per cui staremo a vedere appunto come evolverà la situazione. Grazie Cristina Carpinelli, a proposito di traffico, la viabilità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vi ricordo molto velocemente che i fatti principali di oggi riguardano Roma, dove è stato arrestato per corruzione il braccio destro di Virginia Raggi. Lei chiede scusa e dice: ci siamo fidati, sono dispiaciuta, ma andiamo avanti. Grillo in una telefonata dice: te l'avevo detto, ora rimedia. A Milano il sindaco Sala si autosospende perché indagato per il più importante appalto Expo e dice: prima voglio capire. Per Mediaset la scalata di Vivendi, Fininvest valuta il sequestro dell'azione di Vivendi e Stati Uniti, FBI e il capo dei 007 sono concordi con la CIA e dicono la Russia ha interferito sulle elezioni americane per aiutare Donald Trump. Europa 24 notte. Parliamo del 2017, l'anno dei piccoli alla guida dell'Unione Europea. Da gennaio infatti è il turno di Malta. Sul tavolo molti temi: Mediterraneo, migranti, rapporti marittimi. Sono le cosiddette 3M, cioè i punti cardine che appunto Malta porterà avanti nella sua presidenza di turno del Consiglio. A very crucial area. I think that migration became very crucial also for the future of the European Union itself. Il dossier migranti sarà questa la priorità del semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, quella che Malta assumerà a partire da gennaio prossimo. Così spiega il ministro degli interni maltese Carmelo Abela, tema cruciale sul quale progressi ci sono stati, ma molto resta ancora da fare. Il popolo malte va oggi e quas e lì l'Europa ia non infermiata al Malta in iamnu. E poi ancora il mercato unico digitale, la sicurezza dei mari, l'inclusione sociale, aggiunge Ian Borg, Borghe, sottosegretario di Stato maltese responsabile per il programma del prossimo semestre, e ci sarà da affrontare il capitolo Brexit, il tema della sicurezza, le celebrazioni dei 60 anni dei trattati europei, ma anche più in generale la presidenza maltese dovrà vincere la sfida del rilancio dell'Unione Europea. Un paese grande, 2 volte Liechtenstein e 3 volte Parigi, 400.000 abitanti, piccolo dunque, ce la farà a incidere sull'agenda europea? Ma cosa significa poi essere presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea? Lo abbiamo chiesto a Beatrice Covassi, rappresentante della Commissione Europea in Italia. La presenza rotante è, se vogliamo, un modo per, in parole semplici, dare anche una responsabilità ad ogni Stato membro dell'Unione di portare il suo contributo al funzionamento della macchina dell'Unione. E secondo me è anche un modo molto utile, soprattutto in questa fase storica di nazionalismi crescenti, per portare le istituzioni europee e l'Unione più vicina ai cittadini. Ma in che modo poi un paese può incidere? Ma di fatto la presidenza di turno ha un ruolo importante, appunto perché presiede tutte le riunioni, aiuta a fissare l'agenda, la scaletta, ma non solo, organizza e mette in atto tutta una serie di iniziative nello Stato membro, e quindi è un segno più tangibile di che cosa significhi far parte dell'Unione Europea in quello Stato membro. Secondo lei quali saranno i punti qualificanti della presidenza di Malta? Quali temi che questo paese vorrà portare avanti? La presidenza di Malta eredita da quella slovacca un dato molto importante, imprescindibile, che è la Brexit, quindi il fatto di dover in qualche modo dettare la continuità dell'agenda a 27, di questa nuova unione a 27 che si va delineando. Da questo punto di vista la presidenza slovacca, che finirà adesso a dicembre, è riuscita a dare una roadmap, quella famosa roadmap di Bratislava che tutti conosciamo, dove la migrazione è un punto importante, ma anche il mercato unico, quindi il futuro dell'Europa 27. Questo sarà ripreso dai maltesi, ci sarà un summit informale a La Valletta prima delle celebrazioni dei trattati di Roma, e in più il prossimo anno ci sarà tutto il pacchetto digitale, quindi lo sviluppo del mercato unico digitale e del mercato interno dell'energia, la sicurezza, l'inclusione sociale e anche le politiche del vicinato e il settore marittimo. Trattandosi chiaramente di un paese marittimo come Malta, non può mancare l'attenzione al settore, alla politica marittima. Ma soprattutto penso la presidenza maltese dovrà veramente vincere la sfida politica del rilancio dell'Unione Europea, il prossimo semestre sarà determinante in questo senso. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Parlavamo prima di traffico, di smog, di mancanza di pioggia che porti via le polveri sottili. Allora chiediamo al nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole in genere, e spero anche spazzatore via di polveri sottili. Senti. Mi si chiede troppo, Roberta. Che ci porta? Che tempo ci porta nei prossimi allora, giorni? Allora, guarda, comunque dal punto di vista inquinamento qualche miglioramento ci sarà, non tanto in termini di precipitazioni, quelle mancano ancora, ne abbiamo sì bisogno, però in qualche modo un pochino l'aria si muove. Verrà questo fine settimana sulle regioni settentrionali, al punto che probabilmente torneremo anche a vedere un po' di sole al nord e respireremo aria un pochettino più pulita. E comunque in generale, guarda, sarà un weekend di bel tempo in gran parte d'Italia, solo la Sicilia domani rischia qualche piovasco. In ultimo, Roberta, settimana prossima partiamo con maltempo al centro-sud e poi c'è la possibilità, piuttosto remota ma non da escludere, di un bianco Natal al nord. Staremo a vedere. Dici che ci copriremo di questa di possibilità sì, proprio al 25 vedremo. Vedo scene di esultanza. Comunque preparate gli sci, perché sennò anche lo slittino, il bob, vanno bene. Grazie Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buon tempo. Grazie a te Paolo, a te, buon comunque tempo sia a tutti. Ciao Paolo. Ancora con un pochino di tempo per i vostri messaggi. C'è chi dice concordo, la sindaca deve dimettersi. Un altro messaggio invece dice non dimentichiamoci che in tutta questa storia la Raggi non ha nessuna responsabilità penale, questo è chiaro, anche se evidentemente diventa una questione di opportunità politica. Poi un altro, i palazzinari e le loro fazioni, l'ATAC, Lama, le Buche, Marra, Muraro, li scoprite solo adesso. Tronca, perché non ha troncato lui con il passato, cioè il commissario Tronca? Io direi che però qui purtroppo dobbiamo troncarci, nel senso che il tempo è finito. Ci riaggiorniamo come sempre alle 22, tra poco.